A bordo campo di Dario Ricci. Sì, avevo proposte per rimanere qua, ma con una moto, con la CRT o altrimenti Superbike. Però ho preferito, dopo 22 anni di carriera, non volevo cambiare, avevo intenzione di, diciamo, costruire una vita nuova, e quella vuol dire smettere di correre. 322 gare disputate, 99 podi, 41 pole position, 3147 punti in classifica nel moto mondiale. Ah, e poi quasi dimenticavo, anche 3 titoli mondiali, uno in 125 nel 1990, a 17 anni, 2 in 250. Insomma, lo avete capito, a bordo campo riparte per la nuova stagione qui su Radio 24 con un grande campione del motociclismo italiano, e allora è un piacere, un onore avere ospite qui a bordo campo Loris Capirossi. Benvenuto Loris. Benvenuto, grazie mille, è stato un piacere per me essere con voi. Beh Loris, allora diciamolo subito, banda ai sentimentalismi, ma qua a Misano ci hai fatto commuovere un po' tutti, eh. Ma che fai adesso sul più bello, adesso che Capirex pronto ad allungare un'altra zampata, che fai, ti ritiri? Era uno scherzo, dici la verità. Sì, è tutto uno scherzo, no? A parte gli scherzi, è stato molto difficile, ho pensato molto prima di prendere questa decisione, soprattutto calcolando che 22 anni, oltre a quelli prima che ho fatto nelle categorie minori, sono praticamente oltre ben metà della mia vita. Però, come tutte le belle storie, iniziano, poi a un certo punto non devono anche finire. La mia, purtroppo, è arrivata alla fine. Purtroppo sì, c'è anche, diciamo, un numero a due cifre da trasformare al più presto a tre, no? Quei 99 podi che speriamo che da qui a Valencia diventino davvero 100 in carriera, È un po' di tempo che corro dietro a quel numero 100, però purtroppo non ci sono ancora riuscito. Diciamo che, se vogliamo essere onesti, la situazione non è facile, è abbastanza complicata. Purtroppo la nostra moto non si è resa competitiva per tutta la stagione, sono rimaste ancora 5 gare. Io devo dire che 3 di queste 5 gare sono le mie 3 piste preferite, quindi spero veramente di poter fare qualcosa di importante, soprattutto anche per la squadra che si sta impegnando moltissimo. E poi sarebbe veramente bello arrivare al numero pari, il numero 100. Senti, queste ultime stagioni travagliate, ora la Pramac, prima con la Suzuki, quanto hanno pesato su questa decisione? Sono state comunque una buona mano, mi hanno dato una buona mano per prendere la decisione, perché purtroppo quando la moto non è competitiva è tutto molto più difficile, ti diverti meno, quindi pensi di più a quello che farò da grande. Quindi io, soprattutto dopo questa stagione dove ho incontrato una moto non troppo competitiva, difficile, mi sono fatto male, quindi ho cominciato a pensare e ho detto vabbè, cerchiamo di finire al meglio, poi il prossimo anno inizierà una nuova vita per me, perché dopo tanto tempo passato in questo mondo, rimanerne fuori non sarà facile. Devo dire che tutte le sere quando vado a letto c'è sempre un po' di magone, mi è sempre una lacrima, sempre, perché alla fine non riesco immaginarmi senza questa cosa che ho fatto per tanti anni, senza guidare una moto. Però voglio dire, è un percorso della vita, devo dire che mi ritengo una persona veramente fortunatissima, perché ha avuto dalla vita quello che amava di più, cioè gareggiare, e questo ne sono assolutamente consapevole, e adesso voltiamo pagina. Beh, anche perché Ingrid, tua moglie, ha già indicato i prossimi obiettivi, allargare la famiglia, e quello sì che vale più di qualsiasi mondiale. Beh, assolutamente, la famiglia penso che sia al di sopra di qualsiasi altra cosa. Io sono già padre di un figlio fantastico e non nego il fatto che ci piacerebbe molto l'idea di averne più di uno, e quindi ci metteremo al lavoro. Senti, parlavamo di mondiale, inevitabilmente tu che sai già come va a finire, chi lo vince, Stoner o Lorenzo? Diccelo, dai, in esclusiva, in anteprima. Ma guarda, secondo me sarà combattuto fino alla fine, perché se parliamo la parte tecnica ha sicuramente un vantaggio la Honda, perché è molto più competitiva di quanto aveva la Yamaha. Lorenzo si è dimostrato sicuramente un grande campione, te la sta mettendo veramente tutta. E sarà una gara dura, vediamo un po' cosa succede. Io onestamente spero che lo vinca Lorenzo. Ah, e come mai? Perché è un ragazzo comunque genuino, ce la mette tutta, che secondo me è un grandissimo campione, lo stimo moltissimo perché è un grande campione. però non ha sicuramente la passione che ha Lorenzo, quindi alla fine se può vincere quello che ha un po' meno, una moto un po' meno competitiva, è più bello, però io penso che alla fine lo vincerà Casey, anche se sarà due. Beh, insomma, come sentite, Loris Capoirossi non è uno che le manda a dire, anche perché quello che ha fatto Lorenzo a Misano ha dell'incredibile, nel senso che si è vista una vera e propria impresa motociclistica, con quel ritmo clamoroso, ha dettato i tempi, ha fatto vedere che per strappargli questo titolo bisognerà veramente passare sulla sua Yamaha. No, Misano ha fatto una gara fantastica, è partito, ha tenuto tutta la gara un ritmo incredibile, sul passo del 33 alto e 34-0, quindi è stato combattuto un pochino con Casey, poi ha cominciato a prendere vantaggio e si è tenuto fino alla fine. Devo dire che ha fatto una gara davvero campione. Come ho detto, ci sono ancora parecchie gare, la prossima gara di Aragon forse non è la gara ideale per la Yamaha, dove non è molto competitiva, però io penso che comunque se ne vedranno delle belle fino alla fine. A proposito di moto che soffrono e che sono a dir poco competitive, guardiamo sempre in casa Ducati, ma al piano di sopra, Loris, te l'aspettavi un esito così difficile per questo matrimonio tra Valentino Rossi e la rossa di Borgo Panigale? Ma se vogliamo essere onesti, penso che nessuno al mondo si immaginava di vedere Valentino in difficoltà, come lo stiamo vedendo tutti. Purtroppo non è competitivo in questa stagione, gli altri hanno fatto un passo notevole avanti e dico noi siamo rimasti un pochino indietro. La Ducati si sta impegnando moltissimo, stanno lavorando, io ho corso per tanti anni insieme a loro e sto correndo in questo momento insieme a loro e so benissimo che hanno sicuramente un ottimo potenziale tecnico, stanno facendo tantissimi sacrifici per cercare di sviluppare la moto e penso che finiranno questa stagione con un po' di difficoltà, ma sono anche convinto che l'anno prossimo con la moto nuova saranno di nuovo davanti. Immagini una moto nuova che sia un po' meno Ducati e un po' più vicina a quelle che sono le esigenze di Valentino, si parla ad esempio di questo telaio in alluminio meno rigido che sarebbe un po' una rivoluzione per la rossa, credi che alla fine la Ducati dovrà un po' stravolgere la sua filosofia per venire incontro al dottore? Assolutamente, non dimentichiamoci che Valentino è comunque una volta campione del mondo, un pilota che ha portato in alto il motociclismo soprattutto in Italia, un pilota che ci ha dato tanto lustro a tutti, dico, e quindi la Ducati ovviamente dovrà cercare di seguire un pochino le esigenze di Valentino, perché comunque è uno che ha guidato un po' tutte le moto, che ha tantissima esperienza e sono sicuro insieme alla tecnica della Ducati che è di altissimo livello, l'esperienza di Valentino e l'insieme creerà qualcosa di potente, di veloce. Beh, tanti anni passati ruota a fianco a ruota con Valentino, c'è un episodio, un duello particolare che ti rimane ancora più vivo nella memoria dei tanti con il dottore? Beh, ne abbiamo fatti tanti di duelli insieme, per dire nel 2005 ho vinto la gara battendo lui in Malesia, nel 2006 l'ha vinta lui battendo me, purtroppo se andiamo a analizzare i numeri ha avuto la più volte lui di quanto l'ho avuto io, però è sempre stato fantastico combattere insieme a lui. C'è in giro un altro Capirex? Io non ne vedo, eh? Beh, diciamo che in questo momento l'Italia non ha tantissimi talenti nuovi che stanno emergendo. La Spagna ci sta un pochino ammassando sotto questo punto di vista. Loro hanno un vivaio importante, li aiutano i ragazzini da giovani, li fanno crescere e ce ne sono tanti forti. Però sono convinto che ci sono generazioni che vivono e quindi presto ne vedremo tantissimi altri forti. Visti sulla griglia di partenza, chi ti piace di più, Simoncelli o Dovizioso? Perché insomma le nuove leve sono soprattutto loro due. Beh, devo dire che sono tutti e due molto molto bravi. Secondo me Dovizioso è forse un po' sottovalutato, perché di talento secondo me ha un ottimo talento e non dimentichiamoci che in questo momento a oltre metà del campionato è terzo in campionato, quindi vuol dire che ha fatto sicuramente belle cose. Per quanto riguarda Marco, è sicuramente un altro grandissimo talento, sta cominciando adesso a capire come funziona tutto, è velocissimo, è sempre stato velocissimo, quest'anno ha fatto probabilmente qualche errore di troppo dovuto alla sua naturalmente inesperienza, però il prossimo anno sarà senza dubbio a pari del gruppo di quelli che si giocherà il campionato. Beh, insomma, Loris, hai appena annunciato il ritiro, ma non si riesce a parlare di ricordi con te, eh? Sei prontissimo in pista sull'attualità, però un nome e una data non posso non dirtela. Arada, Gran Premio d'Argentina 1998. Un sorpasso incredibile, ti tuffi dentro, lui cade, tu conquisti il titolo mondiale. A distanza di 13 anni, che effetto ti fa quel ricordo? Guarda, mi fa sorridere perché a quell'epoca nacquero polemiche che poi sono state smorzate tutte piano piano, perché alla fine anche la giustizia sportiva mi ha dato ragione per quello che successe in quella gara. Poi adesso la cosa più simpatica comunque è che Tetsuya continua, è ancora qui a Monaco, sta vivendo in Monte Carlo dove sono io, e sua figlia va a scuola con mio figlio, quindi tutte le mattine ci incontriamo all'entrata della scuola e ci facciamo due chiacchiere, ci vediamo un caffè insieme e siamo molto amici. Quindi, e tante volte uno pensa, vedi la vita come cambia, come gira. Non è che sgomitate per chi entra per prima al bar, eh? No, lui poi a scuola entra sempre con sua figlia, è una bambina, quindi è giusto che abbiano sempre il vantaggio delle ragazze. Per questa volta gli concediamo la precedenza, così come concediamo a te un applauso grandissimo per questa grandissima carriera e chiaramente tifo obbligato per conquistare questo centesimo podio, e contiamo di vederti ancora a bordo pista e di ritrovarti presto qui a Radio 24 a bordo campo. Intanto grazie Loris Capirossi per essere stato in nostra compagnia. È stato un piacere enorme mio. A bordo campo. Non è un accordo ponte, è un accordo che ha una durata, diciamo, precisa, in modo che non si entra nel meccanismo delle proroghe tacite, eccetera. La ragione vera è che noi speriamo che, oltre, diciamo, a questo contratto, che ripeto, ha molti contenuti innovativi e importanti, si apra una stagione più generale di grandi riforme del calcio italiano. Di sicuro il fatto del contributo di solidarietà ha tolto un problema alla Lega. Noi abbiamo sempre detto che non era mai stato il nostro problema, quindi probabilmente questo ha sbloccato da parte loro la volontà di sedersi e firmare l'accordo. L'imminenza poi di un'altra partita, la voglia di giocare da parte di tutti, ha fatto il resto. Tempo di ripartenze per A Bordo Campo, ma anche per il calcio nostrano. Lo avete sentito dalla voce del presidente della Lega Calcio Beretta e quello dell'asso calciatori Tommasi. Accordo trovato, la Serie A è ripartita, ma a partire regolarmente, al netto di quello che è stato lo sciopero dei calciatori che ha coinvolto solamente la massima serie, erano stati anche i campionati minori, in particolare la Lega Pro, l'ex Serie C, 77 squadre e piazze storiche del calcio italiano come Vercelli, Foggia, Avellino, Benevento, insomma un campionato ricco sì di problemi anche economici, ma anche con un grande obiettivo di valorizzazione dei giovani talenti del nostro calcio. E allora, proprio della Lega Pro oggi parliamo con Mario Macalli, vicepresidente della Federcalcio e presidente della Lega Pro. Benvenuto presidente Macalli. Grazie a voi, eccomi qua. Allora presidente, partiamo subito dall'attualità, una sua valutazione su quello che è stato lo sciopero dei calciatori. La valutazione fanno tutti, che trovo che far sciopero in momento qua sia una cosa deleteria, al di là delle ragioni, dei torti che possono avere le due componenti. Io credo che i calciatori, nella posizione in cui si trovano, fanno benissimo a salvaguardare i loro diritti, però i diritti si salvaguardano in un'altra maniera, andando sempre in campo, quello che invece loro non hanno fatto. C'è poi da rilevare anche un paradosso, presidente, perché i calciatori hanno sempre detto di scioperare per tutelare non tanto i campionissimi quanto i più deboli contrattualmente tra loro, ma poi proprio le categorie inferiori come la Lega Pro hanno regolarmente giocato. Ecco, come se lo spiega questo paradosso? Guardi, questo che dicono, se qualcuno l'ha detto, se qualcuno si deve mordere la lingua, perché è una grande bugia. In tutta questa vicenda noi non c'entriamo assolutamente nulla. Loro non salvaguardano niente di niente tranne se stessi. L'Associazione Italiana Calciatori gradirebbe, per esempio, che noi giocassimo ancora a 90 società. L'Associazione Italiana Calciatori gradirebbe che ci fossero delle squadre di seconda, di serie B, riserve o di serie A che potessero giocare nei nostri campionati. Sono cose di una assurdità totale. I giovani calciatori che noi impieghiamo, dando delle risorse a chi li impiega, sono mal visti, vorrebbero una deregulation totale. Secondo me il grande male del calcio italiano è che non riescono a capire le situazioni, difendono degli interessi che sono indifendibili. Quando si vuole vedere, noi siamo sempre disponibili a far vedere i poveracci, che loro dicono che i nostri poveracci, come sono poveracci, poveracci veri, sono quelli che si alzano alle 6 di mattina, prendono i treni, vanno a fare i pendolari, vanno in fabbrica, escono alla sera alle 6. Questi sono i veri, quelli che possono avere in bocca la parola sciopero, non questi signori qua. Dicevamo, Presidente, Lega Pro con i suoi problemi, i conti che non tornano spesso, le penalizzazioni conseguenti in classifica, ma anche con un regolamento ad hoc per valorizzare l'impiego dei giovani talenti del nostro calcio da parte dei club. Ecco, di che cosa si tratta, Presidente? So che ci sono dei compensi e dei premi in denaro per le società che fanno giocare i giovani, che puntano sui giovani, vero? Lo facciamo da anni, anche quest'anno abbiamo proposto il nostro regolamento. Non è stato accolto con la dovuta simpatia dall'Associazione Italiana Calciatori, che non vuole questo regolamento, vorrebbe che noi premiassimo delle società, e faccio un esempio per far capire a tutti, che una società che va in campo con 10 32enni e uno di 19 anni, noi dovremmo dare il minutaggio a quelli di 19 anni, è una follia assoluta, perché noi se non mettiamo un limite a certe situazioni, è chiaro che i presidenti, sulla spinta della piazza, sulla spinta magari di risultati che non vengono, gli prendono la mano. Così invece non nessuno può prendere la mano a nessuno. Se vogliono, una scelta imprenditoriale, non è un obbligo quello di far giocare i giovani, è una scelta. Se però uno, ecco, non li fa, sì, giocare, non prende i soldi, è tutto lì. Quindi, sì, non stiamo obbligando nessuno, stiamo facendo un'operazione nell'interesse del calcio nazionale. Tutti prendono soldi, tutti, ecco, quelle età di giovani in campo, in base ai minuti che giocano, alla fine, in base a un valore minuto che si calcolerà naturalmente matematicamente, vedendo quanti sono quelli che giocano con questi giovani e con le risorse che la federazione ci dovrebbe erogare, cosa che non ha ancora neanche accennato. Noi proseguiamo su questa strada, riteniamo che sia una strada giusta. Ecco, Presidente Macali, ci fa qualche esempio di società, di club che ha puntato sui giovani, e anche dei premi in denaro che il regolamento garantisce a chi punta su questi nuovi talenti? Ma guardate, vi faccio un esempio molto pratico. L'anno scorso a livello di prima divisione la squadra che ha preso più soldi è stata la squadra che ha vinto il campionato, il Gubbio ha preso circa 800-900 mila euro, perché, e quindi ha vinto il campionato, non è retrocesso. Certo. Davanti a tutte le corazzate che chiamano così, e io non so perché si chiamino corazzate o meno, questi sono andati in campo con i giovani, hanno preso i soldi e hanno vinto il campionato. Il Foligno invece ha lottato per non retrocedere, ma ha preso una cifra intorno ai 750 mila euro. Ci sono società che hanno preso 0 euro perché non hanno impiegato i giovani, hanno fatto una politica diversa, Cremonese, Benevento, ne posso dire tanti. Tra i problemi di categoria, e non solo, mi viene da dire, anche quello del calcio scommesse. Recentissima inchiesta che ha colpito anche alcune compagini di Lega Pro, avete reagito in modo costruttivo, no? So che avete fatto riferimento a una sorta di certificazione di garanzia e di qualità delle gare del vostro campionato, proprio per operare all'insegna della credibilità e della trasparenza. Di cosa si tratta, Presidente? E abbiamo preso questa società svizzera che lavora anche operativamente in Inghilterra, che controlla la Bundesliga anche, eccetera, che è la Sport Radar. Noi abbiamo introdotto anche un codice etico per primi in Italia con le nostre società e abbiamo monitorato e stiamo monitorando tutte le partite nostre con questa società, che è forse la prima in Europa. Guardiamo tutto il mercato, loro guardano non solo il mercato italiano delle scommesse, ma il mercato asiatico, il mercato anche dove ci sono delle giocate un po' strane. Quando ci sono delle situazioni anomale, e le avremo immediatamente, cominceremo a fare le denunce, prima alla procura naturalmente sportiva e poi se è il caso con grosse, gravi, eccetera, anche al di fuori del mondo sportivo. Procura della Repubblica, se uno commette un reato e viene a conoscenza che c'è un reato, un possibile reato, è giusto che lo segnali a chi di dovere, è doveroso segnalarlo, è un obbligo segnalarlo. Al di là di quelle che saranno poi le classifiche finali del campionato, direi che le scadenze più importanti per i club della Lega Pro, presidente Macalli, sono proprio quelle con i bilanci e con i conti. L'anno scorso, vale la pena ricordarlo, ben 126 punti di penalizzazione in totale per inadempienze fiscali ai club di Lega Pro. Cosa si aspetta per quest'anno? Mi aspetto uno scenario un po' migliore, non tanto perché... sono affluite risorse che prima non affluivano, le risorse non sono affluite, dovrebbero affluire perché noi vantiamo dei diritti che non sono stati ancora soddisfatti, verranno secondo me soddisfatti a breve perché dovranno essere soddisfatti, però al di là di questo, ecco qui la politica che noi facciamo, la politica dei giovani, la politica che serve a far sì che un bilancio non abbia delle spese folli, e che crei un prodotto che possa creare delle plusvalenze su un mercato ricreandolo che oggi non c'è. Quindi noi siamo molto, molto attenti a queste cose, siamo anche preoccupati perché sappiamo che tante società hanno fatto degli sforzi notevoli a livello di iscrizione, quindi si sono presentate sulla linea di partenza col fiato grosso già, però ci sono davanti 12 mesi e ogni mese devi soddisfare i calciatori. Anche perché quest'anno chi sbaglia e chi prende un punto di penalità praticamente rinuncia a tutti i contributi federali. Questa è una nuova norma che abbiamo messo perché riteniamo che chi non è in grado di mantenere fede agli impegni che assume non debba prendere soldi da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Eh già, c'è ancora tanto lavoro da fare. Allora, intanto grazie al presidente della Lega Pro, Mario Macalli, per essere stato ospite di Radio 24 e di A Bordo Campo. No, grazie a voi, grazie mille. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, ben ritrovati con la prima puntata di questa nuova stagione. L'appuntamento è sempre quello d'abitudine, ogni domenica alle 14.30. E ogni sabato in replica alle 6.30. Vi ricordo che potete scriverci anche all'indirizzo mail a bordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito internet. Un grazie a Mauro De Angeli in regia, un saluto da Dario Ricci.